aveva scelto dunque quell'espressione con pienezza di coscienza. Profezia? Noi pensiamo che si tratti piuttosto di quel misterioso gioco in cui Dio a volte ci coinvolge, ci fa chiedere qualcosa di grande, di estremamente impegnativo, di cui non comprendiamo bene le conseguenze, e poi ci esaudisce. Egli agisce con noi come i buoni genitori fanno con i loro bambini, accettano seriamente, con gratitudine, delle promesse che i piccoli fanno in maniera un po' sventata e poi le usano pedagogicamente per aiutarli a crescere. Fu ordinato prete nel santuario della Madonna dei Rimedi quando non aveva ancora 23 anni. Il primo decennio di sacerdozio lo passò come viceparroco nelle periferie e lavorò come cappellano in un istituto di orfani. Come accade a tutti i giovani preti, si interessava soprattutto ai ragazzi. Ma gli veniva anche spontaneo, già allora, appoggiare le rivendicazioni della povera gente che in quegli anni veniva ammassata in villaggi popolari, tirati su alla meno peggio, senza acqua, né luce, né strade, né scuole o servizi d'alcun genere. Evidentemente i benpensanti non mancarono di accusarlo d'essere un prete rosso. La vera passione di Padre Pino, che l'accompagnerà sempre, era quella di educare i giovani, anche se i suoi tentativi si scontravano a volte con le incomprensioni di qualche vecchio parroco. Erano gli anni tumultuosi del Concilio e delle prime contestazioni post-conciliari. Tutti parlavano di dialogo ed egli annotava: un prete deve saper dialogare su quattro fronti, con la realtà, con gli altri, con se stesso e con Dio. Si interrogava su come parlare di Dio ai giovani per riuscire ad entrare in comunicazione con il loro mondo. Si interessava delle vicende dei santi e del loro metodo pedagogico, l'affascinava soprattutto San Giovanni Bosco. Precisava le sue idee sulla Chiesa. La Chiesa è un'assemblea di persone che pregano. Può essere edificata solo pregando e studiando, celebrando e discutendo, amando e lavorando. Si riprometteva di rapportarsi con ogni uomo in base alla vocazione fondamentale di ciascuno, quella di entrare in comunione con Dio, un Dio che è amore ed è pieno di tenerezza, ed era deciso a muoversi apostolicamente con libertà, fedele all'indicazione di Papa Giovanni: non confondere mai l'errore con l'errante. Era insomma un giovane prete entusiasta che non temeva di sbilanciarsi sul terreno della carità e dell'impegno sociale e su quello della creatività pedagogica. Evidentemente non piaceva a tutti e infastidiva gli amanti del quieto vivere. Così, quando il cardinale di allora lo inviò parroco a Godrano, una sperduta frazione di Corleone a 740 metri di altezza, ci fu chi pensò a una punizione. Padre Pino accettò. «Non sono figli di Dio anche quelli di Godrano?» disse, e annunciò con umorismo agli amici che era divenuto il parroco più altolocato della diocesi. Al paese trovò una chiesetta danneggiata dal terremoto, frequentata da tre vecchiette di numero e una canonica lesionata e gelida. Ma il freddo invernale era niente rispetto al freddo che c'era nei cuori della gente, a causa di una faida che da 20 anni teneva il paese in una morsa di paure e di vendette a catena. Si contavano già 15 omicidi e ad ogni morto il paese, spaccato in due, aspettava la ritorsione dell'altra parte. Per intravedere la linea di sangue che divideva il paese, bastava guardare l'assemblea quelle due volte all'anno che la chiesa si riempiva per invincibile tradizione a Pasqua e a Natale. La gente si disponeva in due masse distinte e compatte, con le donne quasi tutte vestite a lutto. Fu l'unica volta che Padre Pino vacillò. «Non so fare il prete», disse. «Non ce la faccio più a fare il prete». Il prete è un servo di tutti. Ma che accade se tutti gli fanno capire che non hanno bisogno di lui? Padre Puglisi aveva una sola risorsa: sapeva trattare con i bambini. Per attirarli comprò un proiettore per diapositive e quando la voce si sparse in parrocchia comparvero i primi visetti incuriositi. Poi passò dalle immagini alla realtà, iniziò a fare catechesi facendo sceneggiare i bambini le parabole di Gesù. Poi gli venne in aiuto da Palermo un gruppetto di scout a gestirgli un doposcuola. Poi inventò una breve vacanza al mare per quei bambini che il mare non l'avevano mai visto. E quando la domenica giunsero in visita papà e mamme, ancora sospettosi, videro allibiti i loro figli che giocavano amichevolmente assieme e che autogestivano tutti i servizi del campo. Iniziò così la ricostruzione della parrocchia. Restava il nucleo infrangibile delle famiglie direttamente coinvolte nella faida. Chiamò allora in aiuto un movimento di laici, di ispirazione francescana, che si dedicavano a forme di missione popolare. Così tornò a risuonare in paese, prima timidamente, poi con forza sempre più grande, la parola perdono. Ma ad ascoltarla c'erano ormai persone che si sentivano ribollire le viscere non solo dall'antico astio, ma anche di un po' di tenerezza. Erano contadini abituati a pensare che perdonare significasse essere deboli e piegarsi alle angherie, o ancor peggio rinnegare la fedeltà ai propri morti, e scoprivano che il perdono poteva essere una forza incredibile di rinnovamento e di riscatto anche per i morti. Finì che la gelida canonica divenne calda d'amore e di gente, anche se la chiamavano il Colosseo perché aveva le porte sempre spalancate. Il paese fu così pacificato. Ma la gente riprese subito a litigare con Padre Pino perché lui voleva a tutti i costi che i ragazzi andassero in città a continuare gli studi dopo la terza media. Ma ormai quel prete l'amavano davvero, tanto che quando in città gli rubarono la misera 500 con cui di solito scarrozzava una decina di bambini alla volta, i parrocchiani si tassarono per comprargli una 126. Tutti sapevano che Padre Pino era poverissimo e viveva del pane e del latte che essi stessi gli regalavano, e il fornaio gli portava personalmente una grossa pagnotta ogni settimana. Si manteneva povero non perché volesse fare il prete contestatore, ma perché aveva deciso di essere un prete francescano, come diceva. Quando, dopo 7 anni, gli offrirono il posto di padre spirituale del seminario maggiore, Padre Pino rifiutò. Scrisse al cardinal Pappalardo di non sentirsi né adatto né capace per quell'incarico, ma in realtà non aveva cuore di abbandonare quei suoi parrocchiani appena riscattati, né di abbandonare gli altri poveri che da tempo soccorreva in una bidonville della periferia di Palermo, detta dello Scaricatore. Si trattava di una serie di catapecchie ad una sola stanza lungo il fiume Oreto, dove si ammassavano cenciaioli, pescatori factotum, venditori ambulanti, domestiche a ore, donne e ragazzi abbandonati. La sua piccola parrocchia gli lasciava molto tempo libero e Padre Pino s'era spontaneamente offerto a collaborare con le assistenti sociali missionarie della diocesi, che organizzavano corsi di licenza elementare per adulti e centri di assistenza per famiglie in difficoltà. Lui poi si faceva aiutare da un gruppetto di ragazzi scelti tra i liceali ai quali insegnava religione, inculcando loro sistematicamente una verità che riteneva irrinunciabile. Fare i volontari voleva dire lavorare per restituire la dovuta dignità a chi ne era stato privato. A Palermo l'emergenza mafia, con le sue trame oscure e delittuose, con tutto il suo vischioso intreccio al mondo dell'economia e della politica, cominciava a interrogare la Chiesa e a inquietare gli animi. Si levavano voci che denunciavano l'insensibilità dei cristiani, non esclusi alcuni vescovi e preti, a riguardo dell'incompatibilità del sistema mafioso a tutti i livelli, dall'appartenenza alla contiguità, al sostegno indiretto, alla richiesta e fruizione di favori con la professione della fede. Certo, Tutti i cristiani condannavano le attività criminose, ma non tutti comprendevano il livello sociopolitico del problema, anche se la mafia ormai insanguinava la città, pur di proteggere ed estendere i suoi molteplici estesissimi tentacoli.